questa è per Andrea. Guarda nel buio, V. Guarda nel buio, V. Guarda nel buio, fu, gli altri non passano qua giù. Sei sempre solo, con te stesso anche ballando in mezzo a loro. Loro che non sanno che affogo, loro che non vedono che dentro me c'è il rogo. L'anima mia che sta bruciando e vola via, ridotta in cenere. La monotonia di ogni cosa lascia in me un crescente schifo, vive insieme a me. Non lo dico neanche a chi avrebbe capito. Guarda nel buio adesso, apri gli occhi dentro il nero e fai i conti con te stesso. Sta fresco chi contro mi ha scommesso. E anche se non trovo più il senso, sono vero e non ho perso. E la mia voglia di lottare, dov'è che va a finire? Se è infranto un ideale, la morale, che la rigiri a tuo favore ma non vale. E da ogni punto che la guardi fa cagare. E la mia storia non ti lascio scriverne la fine. E anche se non ci sei più, stai ancora tra le righe. Che chi è sincero, pure se va avanti per inerzia, resta spento se gli hai distrutto il cielo. Ogni volta che mi sveglio mi chiedo perché, premendo la mia testa contro il muro, so che non troverò risposte se non quelle che so già e che non accetto. Ma non andrò giù, no di certo. E cosa cazzo K.O. per ogni colpo che hai inferto, quattro tiri dopo indietro. E manco Tyson, la regge l'ha ammazzata, forgiata nell'odio dal ricordo di una vita rovinata e sprecata presso a te le tue cazzate. Le false promesse non le ho mai dimenticate. Così vago nel buio, V, ormai da anni, e guardo dentro il nero e non posso ingannarmi. Guarda nel buio, guarda nel buio, V, guarda nel buio, guarda nel buio, V, urla forte la tua rabbia. E anche se non sente il cuore, digli che si sbaglia. Guardo nel buio, V, tu tengo la calma e son già pronto per la prossima battaglia. Guarda nel buio, V, urla forte la tua rabbia. E anche se non sente il cuore, digli che si sbaglia. Guardo nel buio, V, tu tengo la calma e son già pronto per la prossima battaglia. E so quanto è difficile trovarla quella calma. Quando lo stato emozionale implode non si salva. Niente di quello che eravamo resta fuori dal disastro. E i demoni fanno di noi il loro atroce pasto. L'amore morendo lascia il posto al delirio e alla ferocia che ho trovato nel buio che conosco. E se ancora respiro è perché ci guardo dentro e vedo molto bene adesso che lo scrivo. A parole mie questo oscuro, squallido destino, frutto del tuo gesto meschino. Lo so ben io quando l'odio ti divora e niente ti consola, arrivi fino a perdere il rispetto per te stesso. Che cosa conta il resto se il sogno è disperso? La vita è uno stupido alternarsi di bene e male che ricevi e dai, e non può fermarsi a contemplare i sentimenti. Ma è quello che ci frega, dobbiamo andare avanti anche in certi bui, periodi distenti. E cosa posso farci se urlo e non mi senti? Gli altri si confondono in pensieri evanescenti. Io stringo le mascelle sino a che mi spacco i denti. E dite che è normale, poveri scemi, sono io che non mi trovo tra gli ingenui. E aspetto la prossima battaglia, vivo per lo scontro, la gente salta in aria ad ogni colpo ed il significato è stravolto. Lo scopro dentro il buio e poi glielo riporto. Poeta maledetto, bifoco, preso dentro il corpo della mia violenza, affondo e non ritorno. Così resto nel buio, V. Guarda nel buio, V, urla forte la tua rabbia. E anche se non sente il cuore, digli che si sbaglia. Guardo nel buio, V, tu tengo la calma e son già pronto per la prossima battaglia. Guarda nel buio, V, urla forte la tua rabbia. E anche se non sente il cuore, digli che si sbaglia. Guardo nel buio, V, tu tengo la calma e son già pronto per la prossima battaglia. Guarda nel buio, V, urla forte la tua rabbia. E anche se non sente il cuore, digli che si sbaglia. Guardo nel buio, V, tu tengo la calma e son già pronto per la prossima battaglia. Guarda nel buio, V, urla forte la tua rabbia. E anche se non sente il cuore, digli che si sbaglia. Guarda nel buio, V, tu tengo la calma e son già pronto.